Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo delle professioni in questo paese, il che significa occuparsi di almeno 500.000 di iscritti tra avvocati, commercialisti, ingegneri, veterinari, notai, poi ci sono anche i medici. Solo 500.000, sono solo queste categorie che stanno attraversando, come già altre volte abbiamo ricordato, un periodo di estrema difficoltà. Spesso noi ci occupiamo e ci concentriamo sui problemi delle imprese, del mondo del commercio, dei consumatori, e questo va benissimo perché stanno soffrendo anche in particolar modo loro. Però ci si dimentica ogni tanto delle libere professioni, perché si dà per scontato che medici, avvocati, commercialisti stiano bene, diciamola tutta. In realtà ci sono molti giovani medici, giovani avvocati, giovani commercialisti, giovani architetti che stanno tutto tranne che bene. B, hanno praticamente nulla o pochissime garanzie, vedi cassa integrazione, addirittura anche garanzie previdenziali, c'è il rischio di una non tenuta del sistema previdenziale in queste professioni. Il tutto in una settimana in cui è passata al Senato la riforma della riforma Bersani per gli avvocati, quindi eliminando alcune cose introdotte del decreto sulle liberalizzazioni. Penso per esempio alle tariffe minime, che erano state abolite, mo vengono reintrodotte. Non è passato per gli avvocati invece uno stipendio minimo, una contribuzione minima per i praticanti. Sulla stessa scia si stanno muovendo anche i notai. E ieri si è concluso poi il convegno annuale, l'assemblea annuale dei commercialisti, molte proposte, ma anche lì il tema dei giovani, molte proposte a partire da un nuovo redditometro che vada a sostituire in questo momento gli studi di settore. Di questo tratteremo oggi, anche perché è giusto occuparsi di tutti i settori produttivi. Lo dico a chi sta già scrivendo: vi occupate di chi problemi non ne ha. Non è proprio così, attenzione ai luoghi comuni. Parleremo come sempre anche di mercato, che per la seconda seduta, soprattutto su Milano, vede prevalere il segno meno in maniera anche abbastanza netta, meno 1,2% a Milano. I cali nel resto d'Europa sono invece della metà, perde lo 0,6% sia Parigi che Francoforte, Londra meno 0,2%, l'America meno 0,4%. Perché Milano è così negativa? Perché Fiat perde il 4,7%, l'automatica il 4,1%, Buzzi Unicem il 3,90%, Exor il 3,1 come Mondadori e ST Microelectronics il 2,5 lo perdono Fondiaria Assai ed Enel, il 2,2 in pregiro la Popolare di Milano. Poi perdono più dell'indice anche i titoli molto pesanti nella composizione dell'indice, cioè che hanno un peso specifico più alto: Eni meno 1,6 come Intesa San Paolo e Unipol. Anche Mediobanca perde 1,5%, la Popolare di Milano il 2% in questo momento. Chi guadagna? Monte dei Paschi l'1,6, Ansaldo l'1,1 come Autogrill, l'1% il rialzo di Pirelli, lo 0,6 quello di Bulgari. L'euro a quota 1,48,50, il petrolio aperto in ribasso a $76 al barile. 349-238-6666 per i vostri SMS, e adesso le notizie in breve. Allora, mentre arriva un pessimismo forte da parte di Nouriel Roubini, uno dei guru economici in questo momento, che ha detto che le prospettive per l'Europa sulla ripresa sono più deboli rispetto a quelle americane, Roubini ha anche previsto un petrolio che possa tornare a $100 al barile, spinto dalla domanda speculativa, e ha detto la ripresa dovrebbe essere a U. Questa sarebbe una buona notizia, però, perché vorrebbe dire una ripresa forte dopo un calo forte, anche se la U è un simbolo, diciamo, meno bello della V, che era quello che tutti avrebbero voluto, cioè un brusco calo ma anche una brusca ripresa. Una U vuol dire che ti becchi un periodo di stagnazione. Dicevo, mentre queste sono le previsioni di Nouriel Roubini, continuano le tensioni sui titoli greci, sui titoli di Stato greci, come oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore, la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e l'equivalente obbligazione tedesca è ormai a 170 punti, l'1,7%, la Grecia è dentro l'euro, per cui non è giustificata da altri motivi se non dal rischio paese. Siamo ai massimi da luglio e nel frattempo il deficit va quasi al 13% in Grecia, il più alto dell'Unione Europea, e il PIL continua a calare, meno 0,3%. E questo è un segnale in controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi europei, che invece un miglioramento del PIL, un segno più, lo hanno visto proprio con i dati dell'ultimo trimestre. Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, chiede che le banche usino questi soldi, questi utili, per rafforzare il capitale e il patrimonio, non per pagare i bonus ai manager. Nel frattempo in Italia l'associazione delle banche italiane, per voce del presidente dell'ABI Corrado Faissola, ha detto che le perdite sui crediti del mondo bancario arriveranno a fine anno a vicine 20 miliardi, dopo che già nei primi 9 mesi dell'anno si è arrivati a 11 miliardi. No, il sistema bancario sta infatti registrando una crescita nelle sofferenze, e cioè in quei crediti concessi che diventano sofferti, appunto, perché è difficile che possano essere ripresi a breve. Le sofferenze lorde sono arrivate a 55 miliardi di euro, più 25% rispetto all'anno scorso. Buon dato sul fatturato dell'industria a settembre in Italia, più 2,3% mese su mese, cioè rispetto ad agosto, meno 17% rispetto a un anno prima. Anche gli ordinativi sono cresciuti a settembre, questo è un buon dato, più 5% rispetto ad agosto, sono sempre un 20% in meno rispetto a un anno prima. Ancora, secondo quanto riferito dai sindacalisti, il motivo per cui i dipendenti sardi del colosso multinazionale dell'alluminio Alcoa hanno occupato lo stabilimento di Porto Vesme, appunto tra Carbonia e Iglesias, è perché, secondo appunto quanto riportato dai sindacalisti, Alcoa avrebbe deciso la chiusura degli stabilimenti italiani, l'altro è a Fusina, in provincia di Venezia, come reazione alla decisione della Commissione Europea, che ha chiesto ad Alcoa di restituire aiuti di Stato indebitamente ricevuti per 270 milioni di euro. L'annuario statistico dell'Istat, c'è un po' di tutto dentro, ma insomma un italiano su due è insoddisfatto della situazione economica. La famiglia tipo sborsa per una spesa media 2.485 euro al mese, e il 20% va nel carrello, nella spesa alimentare. Rispetto al 2007 cambia poco, l'aumento di soli 5 euro nel 2008, come dire, consumi assolutamente fermi. Anche per la tavola, gli italiani hanno speso 9 euro in più. In effetti, in termini reali, siamo sotto a livello di inflazione. Cresce la quota di lavoratori immigrati sulla media complessiva, dal 6,5% al 7,5% dal 2007 al 2008, questo registra l'Istat. Gli stranieri sono ormai il 6,5% della popolazione, è un continuo trend di crescita, mentre l'Italia invecchia sempre di più, un abitante su 5 ormai ha più di 65 anni. Ultimo dato che riporta l'Istat oggi nel suo annuario statistico: il computer viene sempre maggiormente usato dagli italiani, un incremento costante, metà praticamente della popolazione dichiara di usare il PC e quasi la metà, il 44%, di usare internet. Esiste un divario territoriale molto forte, ma se gli uomini navigano più delle donne, le bambine, quelle tra i 6 e i 10 anni, sono praticamente più informatizzate. Non capisco come l'Istat possa dire che una bambina tra i 6 e i 10 naviga sul computer così bene, però insomma, secondo l'Istat, navigano più su internet le bambine dai 6 ai 10 anni. Vabbè, adesso passiamo ai temi, vedo già molti messaggi. Non parleremo dei tassisti perché erano inseriti nel decreto Bersani, ma in questo momento le novità arrivano dal fronte degli avvocati, con quello che passa dal Senato, e anche dal fronte dei notai e dei commercialisti. Poi vedremo che cosa succederà. Certo è che i liberi professionisti, vuoi perché vengono obbligati delle volte a diventare partite IVA pur facendo un lavoro da dipendenti, vuoi perché non hanno cassa integrazione o ammortizzatori sociali, vuoi perché vengono pagati poco quando giovani, in una giungla senza nessuna regolamentazione, ci sono migliaia di professionisti, di liberi professionisti a rischio o che hanno già perso il posto di lavoro o che lo stanno perdendo. E allora partiamo proprio dagli avvocati, visto che la Commissione Giustizia del Senato ha approvato la riforma della professione forense, astensione dell'UDC, lo avete letto, l'abbiamo detto anche noi, voto contrario del PD, il testo dovrebbe arrivare all'esame dell'intera aula entro l'inizio di dicembre. Di questo testo, di come la crisi stia colpendo anche la professione degli avvocati, ne parliamo con, che significa poi in Italia 200.000 persone, ne parliamo con l'avvocato Guido Alpa, che è presidente del Consiglio Nazionale Forense. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche al presidente dell'Unione Giovani Avvocati Italiani, ne fanno parte anche i praticanti. Avvocato Gaetano Romano, buonasera anche a lei. Buonasera. Dunque, la riforma che cosa prevede? Delle regole più severe per l'accesso alla professione di avvocato, e questo va bene con la, il test di preselezione, l'esclusione dall'albo di chi non esercita la professione in modo continuativo, e anche qui mi sembra assolutamente inopinabile, e poi invece vengono reintrodotte le tariffe minime, quelle che erano state soppresse dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni, per cui vi saranno delle tariffe da un minimo o un massimo, però insomma, possiamo anche dare degli esempi. Respinto poi un emendamento dell'opposizione che chiedeva l'introduzione di un compenso minimo per i praticanti. Allora, presidente Alpa, perché vi siete battuti così tanto per reintrodurre le tariffe minime, che per quello che capisco io... Questa proposta non proviene soltanto dai componenti della commissione della maggioranza, ma anche dai componenti della commissione di minoranza, nel senso che si è preso atto di quella situazione che il Consiglio Nazionale Forense aveva già da tempo segnalato, e cioè che l'abolizione delle tariffe minime aveva provocato uno spostamento degli oneri relativi alle spese di giustizia e all'assistenza da parte degli avvocati ai privati dalle grandi imprese, dalle banche, delle assicurazioni ai consumatori. Quindi avevo ottenuto esattamente l'effetto opposto rispetto a quello che il legislatore si era prefisso. Ecco, mi faccia capire, scusi, lei dice quando col decreto Bersani sono state eliminate le tariffe minime, cioè per una controversia fino a 5.200 euro davanti al tribunale c'è una tariffa minima di 80 euro, massima di 200, poi ci sono tutto un tabellario di tariffe minime. Beh, dicevo, quell'abolizione doveva servire, come in tutti i mercati, a liberalizzare un mercato, mettere in concorrenza magari il giovane avvocato che ha meno fama, anche meno esperienza, forse anche meno bravo, praticherà a un prezzo molto più basso rispetto allo studio affermato di avvocati con esperienza e con uno studio strutturato, che possono chiedere una tariffa più alta, un po' come avviene per un dentista che è giovane e magari chiede meno rispetto allo studio dentistico che invece è affermato. Perché dice che non ha funzionato? Le spiego subito, è una rappresentazione ideale che non funziona, nel senso che le grandi imprese, le banche e le assicurazioni hanno predisposto delle convenzioni con compensi assolutamente minimi, indecorosi, che hanno imposto agli avvocati con i quali avevano già istituito il loro rapporto, e questi nella gran parte dei casi hanno accettato perché avevano interesse ad avere una continuità di lavoro, dovendo però tuttavia assolvere le loro funzioni, quindi qualitativamente mantenendo la qualità che avevano sempre osservato, ma a delle condizioni economiche insostenibili. Quindi non si è avuto quell'effetto di distributivo che qualcuno riteneva che si volesse perseguire. Tenga conto anche che non era certo questo lo scopo del decreto Bersani, ma lo scopo del decreto Bersani era, detto in termini molto rudi, una lenzuolata che liberalizzava le tariffe e ognuno fissava il prezzo che riusciva a strappare. Tra l'altro i giovani non erano interessati a raccogliere questo tipo di attività, perché questo tipo di attività complessa, e quindi non avevano nessuna possibilità di sostituirsi agli avvocati che già da tempo avevano come loro clienti le banche. Quindi lei dice, in realtà i grandi gruppi bancari e assicurativi se ne approfittavano e imponevano, vista la loro forza, gli studi legali, soprattutto se più piccoli, delle tariffe minime indecorose. Vorrei sentire i giovani avvocati, perché questa norma doveva andare a loro vantaggio, cioè appunto mettere in concorrenza attraverso una tariffa il giovane avvocato con meno esperienza, che però ti chiede di meno, con l'avvocato blasonato e di fama che chiede di più. Avvocato Romano. La rappresentazione che ci dà l'avvocato Alpa non ci convince. Non ci convince perché non ci sono dati che certificano quello che lui asserisce. Tra le altre cose, secondo quella rappresentazione ideale, le grandi imprese andrebbero ad avvalersi di avvocati di bassa lega, perché se impongono ad un avvocato una tariffazione più bassa, vuol dire che l'avvocato, secondo la rappresentazione ideale dell'avvocato Alpa, non è un avvocato di grande levatura, perché altrimenti non se la farebbe, non l'accetterebbe. Mm-hmm. Per cui diciamo, quella rappresentazione ideale non ci convince. Non ci sono dati che certificano che diciamo, le tariffe minime, l'abolizione delle tariffe minime ha nuociuto ai consumatori, tutt'altro, le associazioni dei consumatori chiedono che la riforma Bersani venga mantenuta. Per cui diciamo, noi abbiamo un altro tipo di prospettiva, un altro tipo di valutazione della riforma Bersani. Crediamo che sia opportuno mantenerla. Allora, vediamo se riesco a spostare il tema su un altro fronte, perché sennò diciamo, voi dite che non è vero, gli avvocati anziani, mi chiamo così, insomma, dicono che no, il meccanismo non stava funzionando. Avvocato Alpa, lei che rappresenta gli avvocati diciamo, non giovani, chiamiamoli così, qui noi stiamo assistendo da mesi a una frantumazione, a una erosione di molte libere professioni, soprattutto quando a essere colpiti dalla crisi sono i giovani professionisti, avvocati, commercialisti, che sono messi praticamente obbligati a fare le partite IVA per non essere, anche se sono di fatto assunti. Non esiste appunto un compenso minimo, sono quelli più esposti a una crisi che chiaramente colpendo le industrie ma anche i servizi vede anche erodersi quello che è il giro d'affari della consulenza legale. Cioè, la sensazione che si riceve da questa riforma che voi avete supportato e avete anche condiviso è quasi una guerra generazionale. Cioè, da un lato non è stato introdotto il compenso minimo per i praticanti, dall'altro rimettete le tariffe minime che quindi il giovane non riesce a competere sulla tariffa. Cioè, non state rischiando un arroccamento generazionale, se mi passa il concetto? Una rappresentazione che nessun avvocato in Italia abbia mai neanche lontanamente pensato. Non so a che cosa si riferisca l'avvocato Romano quando lui parla di categorie di avvocati, non so quale sia la rappresentatività della sua associazione. Io rappresento tutti gli avvocati italiani, conosco tutte le associazioni italiane rappresentate al congresso, le quali hanno con documentazione depositato anche i numeri dei loro iscritti. Nessuna di queste ha interesse, compresa l'AIGA, l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, che è la più grande associazione che vi sia nell'ambito dell'avvocatura, nessuna di queste ha mai pensato all'eliminazione delle tariffe o alla reintroduzione delle tariffe come una guerra generazionale. È una rappresentazione che io respingo come fatto, diciamo così, una buttade che non risulta assolutamente, non ha nessun raffronto con la realtà reale, con la realtà vera. Non è un problema di generazioni, è un problema di crisi economica che riguarda tutti, compresi gli studi grandi, di grandi dimensioni, riguarda tutti gli avvocati di qualunque età. La crisi economica è una cosa, la reintroduzione delle tariffe riguarda invece la prestazione forense e la qualità della prestazione forense, e questo riguarda tutti gli avvocati di qualunque età. Poi, se ci sono delle agevolazioni che devono essere previste, e queste sono previste dal punto di vista previdenziale, dal punto di vista della continuità dell'esercizio della professione, dal punto di vista anche dell'agevolazione dei giovani avvocati, queste da tempo si sta dedicando il Consiglio Nazionale Forense, e la legge attuale, questa di riforma, certamente le prende in considerazione, a cominciare anche dalla gratuità dei corsi di aggiornamento professionale, in modo che tutti possono essere essere più qualificati senza dover aggravarsi di cose. Se mi scusi però, Presidente, nel mondo del giornalismo, per esempio, il praticante giornalista ha un stipendio minimo, non è che l'azienda, la casa editrice possa decidere di dare 200, 300... Allora, io no, le chiedo perché, siccome penso che anche lei sia d'accordo che la crisi colpisce tutti, ma la paga di più chi è più giovane, chi ha un minor potere contrattuale, chi ha minor fama sul mercato e chi si trova anche a non essere tutelato sui versamenti contributivi. Quindi è vero che la crisi colpisce tutti, però alcuni li colpisce un po' di più perché sono più deboli, altri un po' di meno, no? D'accordo con lei, le dico anche questo. Primo, che nel codice deontologico si è fissato l'obbligo di remunerare il praticante e quindi l'avvocato che non lo fa commette una violazione deontologica e può essere sanzionato. Ma di più, il Consiglio Nazionale Forense, nella proposta che aveva avanzato e sottoposto al Governo e al Senato e alla Camera, aveva anche inserito una disposizione che prevedeva l'obbligo da parte dell'avvocato di retribuire i colleghi che fanno il tirocinio. Questa disposizione è stata soppressa, ma non per volontà del Consiglio Nazionale Forense, tant'è vero che il Consiglio Nazionale Forense cercherà di riproporla attraverso i senatori che valuteranno il testo è stato approvato in commissione, in aula, e cercherà di reintrodurre questa disposizione che è stata cassata. Allora, avvocato Romano, anche lei la stessa domanda, cioè, dice il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, guardate che non è vero, ci sono tutto un insieme di norme a partire anche dai corsi di formazione previste proprio per gli avvocati più deboli, è un obbligo deontologico pagare il praticante e anche l'avvocato. Noi sappiamo che in realtà poi questo può essere l'uso, perché se lo paghi 200 euro di fatto non lo paghi, ma insomma loro dicono, gli avvocati insomma, del Consiglio Nazionale Forense, che non c'è nessuna guerra generazionale. Ringrazio l'avvocato Alpa perché mi dà la possibilità di rappresentare a chi ci ascolta l'effettiva rappresentatività del congresso di cui parla appunto l'avvocato Alpa. Secondo i nostri dati, per le elezioni ai delegati di questo congresso, che poi determina quali sono secondo loro le associazioni rappresentative, ad esempio a Bologna avrebbe votato, anzi ha votato, perché sono dati certi, il 4% degli avvocati, sì, a Milano il 6%. Si comprende quindi che tipo di rappresentatività abbia. Però questo non è l'oggetto, diciamo, della puntata. Mi deve dare la possibilità di rispondere. No, certo, ma io volevo capire sulle proposte concrete. Poi i vostri problemi di rappresentanza interna chiaramente sono certo, affari vostri. Per quanto riguarda il pagamento del praticante, è l'ultimo dei problemi. L'ultimo dei problemi anche perché bisogna stare molto attenti, perché se bisogna pagare il praticante, magari poi il praticante non ha la possibilità di trovare lo studio, perché l'avvocato che deve pagare un praticante poi non lo assume ai fini della pratica forense. Quindi è un discorso molto molto molto delicato, quindi bisogna vedere anche le questioni che si possono innestare, come ad esempio poi la difficoltà a trovare uno studio dove fare pratica. Quindi il principale per noi è la necessità che il praticante riesca a trovare uno studio ove fare pratica. Il compenso è una questione di seconda rilevanza. Vabbè, però insomma io invito tutti, perché adesso non possiamo, vedo anche molti messaggi al 349-238-6666, l'unica cosa che contesto a chi scrive, attenzione, non è che quando si parla di avvocati si parli sempre di persone ricche, cioè è chiaro che insomma, uno studio avviato è come parlare di un medico, di un libero professionista di altre categorie, però non è che la crisi lì non ci sia, se noi andiamo a vedere il giro d'affari di questi liberi professionisti, ci sono cali del 20-30% nel giro d'affari. E soprattutto, ripeto, non è che siccome uno fa il giovane avvocato con 1.000 euro al mese non sia degno di essere oggetto dei nostri quotidiani approfondimenti. Grazie comunque per la disponibilità al Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa e al Presidente dell'Unione Giovani Avvocati Italiani Gaetano Romano. Grazie, buonasera. E oggi andremo avanti con le professioni, mancano ancora i notai e i commercialisti, a chi scrive gli architetti li abbiamo già fatti, insomma ci occupiamo di tutto, un pezzo per volta, tempo permettendo. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso parleremo con chi rappresenta i notai, poi i commercialisti, Oggi un'ampia puntata sulle partite IVA. Voglio però dare l'aggiornamento sulla chiusura di borsa. Allora, confermata Milano la peggiore in tutta Europa, meno 1,4% il FTSE MIB, mentre in Europa la media del Cali è intorno allo 0,7%, quindi la metà. Questo vale per Francoforte, per Parigi, Londra ancora meglio, meno 0,2%. L'America sta perdendo mezzo punto percentuale. Oggi commento di borsa. Dovrete accontentarvi del mio commento di borsa. Allora, per quello che riguarda i titoli, bene Monte dei Paschi più 1,2%, Ansaldo più 1,2%, Pirelli più 1%. Su Pirelli qui c'è una notizia, o perlomeno c'è l'ipotesi di mercato che si vada in qualche modo a scorporare Pirelli da Pirelli Real Estate. Questo nonostante, come indicazione, alcuni report poco positivi su Pirelli, il titolo cresce. Autogrill più 0,7%, Bulgari più 0,6%. Chi ha perso e perché Milano perde più del resto d'Europa? Beh, per due motivi. Si chiamano Fiat, meno 4,8%. Anche qui ci sono da un lato dei report, ma soprattutto UBS, per esempio. Un mito UBS. Vabbè, non spiegherò. Non continuo a dire che siccome una banca ha perso decine di miliardi farebbe bene a fare i report su se stessa e non sugli altri. L'ho già detto mille volte, non lo dico più. Andiamo avanti. UBS ha rivisto a ribasso le raccomandazioni e anche gli obiettivi di prezzo per Fiat, ma soprattutto c'è incertezza su cosa capiterà sugli incentivi. Ieri il ministro Scajola ha ricordato che il numero uno di Fiat, Marchionne, incontrerà il presidente del Consiglio Berlusconi a dicembre per illustrare il piano dell'azienda. Marchionne ha detto: beh, noi non abbiamo fatto alcuna richiesta, ne la faremo, gestiremo la decisione del governo, non possiamo difendere tutti gli stabilimenti, non c'è nemmeno un euro nelle casse della Fiat per quello che riguarda la vicenda di Termini Imerese. I sindacati avevano accusato Lingotto di aver incassato 500 milioni con il contratto di programma del 2008. Forte incertezza, il titolo comunque scende a 10 euro secchi per azione, l'automatica meno 5%. Anche qui il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Sisan annullando la gara su Gratta e Vinci, chiaramente il titolo soffre. ST Microelectronics meno 4%, male anche Buzzi Unice, meno 3,90%, come il 3,5% lo perde Mondadori, il 3% Exor, il 2,4% lo perde Fondiaria, ma anche la Popolare di Milano, il 2,1% è il calo del Banco Popolare, il 2% quello di Impregilo e di Eni, ma anche di Intesa San Paolo, l'1,80% lo ha perso Enel, Mediobanca pure, l'1,6% il calo di Unipol e A2A. Chi ha guadagnato, l'abbiamo detto, i migliori e peggiori in assoluto. Continua precipizio su Seat, dopo l'indicazione di ieri che il titolo vale zero, arrivata da una casa d'affari, anche oggi perde un 14, quasi il 13,7% Seat, pagine gialle sul risparmio, e perde il 7% sull'ordinaria a 16 centesimi di euro per azione. Miglior titolo ancora le acque, Qui la privatizzazione, il mercato scommette che porterà utili a chi gestisce le acque e immagino aumenti tariffari per noi, e più 27% acque potabili, più 11,6% Mediterranea Acque. Allora, adesso parliamo con i notai, dopo le informazioni per chi è in viaggio, ma sentendo un po' di resistenze così corporativistiche, dico, da ordine professionali, a noi è venuto in mente una cosa, cioè un mondo delle professioni che invece che così accettare la sfida del mercato, mettersi in concorrenza, si arrocca in maniera un po' così medievale. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino! Si paga? Un fiorino! Oh, fermi. Oh, scusi, sacco, doganiere. Vabbè, allora. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Una, dai, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è caduto il sacco, no, lui l'ha scavettato. Un fiorino. Ma siamo quelli... Vabbè, Benigni e Troisi, non ci resta che piangere, insomma, un po' le corporazioni medievali le sentiamo anche noi, non si offenda nessuno, l'abbiamo messo un po' a ridere. Dopo le informazioni Per chi è in viaggio invece parliamo seriamente della professione dei notai, che ha anche qui cali nel giro d'affari dal 25 al 30% e vuole seguire quello che hanno fatto gli avvocati, cioè tornare al pre-decreto Bersani. Allora, come promesso, continuiamo questo viaggio nelle professioni. Siamo in collegamento con il Presidente del Consiglio del Notariato, Paolo Piccoli, quindi notai. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, anche qui il tema è un po' diverso. Fermo restando che, così rispondo anche a qualche sms, attenzione, è vero che l'Italia è il paese dove è più forte la correlazione tra lavoro e reddito del padre e lavoro e reddito del figlio, tant'è che il 45% degli architetti figli di architetti, il 42% di avvocati figli di avvocati, il 40% dei farmacisti figli di farmacisti, il 70% dei giovani imprenditori figli di imprenditori. E con i notai devo dire che, contrariamente all'idea comune, ci si ferma al 18%. Però voi avete, anche voi state soffrendo soprattutto nella parte giovane, meno 25% giro d'affari, corretto? Diciamo abbiamo superato il 30% di perdita del giro d'affari, tra il 30 ed il 40 negli ultimi tre anni, ma per una ragione molto semplice, che l'economia colpisce settori che sono i due settori che noi seguiamo, cioè le transazioni immobiliari e gli atti societari, e quindi chiaramente la crisi si è fatta sentire in modo formidabile. Ecco, anche voi siete stati oggetto del decreto Bersani del 2006, che anche in questo caso ha soppresso le tariffe minime. Ho capito bene, ma anche voi vi state, cioè, siete sulla stessa falsa riga degli avvocati, per cui chiederete che venga riformato il decreto Bersani e abolita la soppressione delle tariffe minime, cioè reintrodotte le tariffe minime? Noi pensiamo che una tariffa certa, più che una tariffa inderogabile, vada a vantaggio dei cittadini e non dei notai. Guardi che le tariffe olandesi, del notariato olandese, che ha avuto una riforma di liberalizzazione sia sul numero chiuso sia sulle tariffe, sa che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto che i cittadini, cioè i consumatori, pagano il 60% in più di 10 anni fa, quando si è creata questa liberalizzazione. Chi è che ci ha guadagnato? Banche e assicurazioni, cioè chi ha un potere contrattuale molto forte. Allora diventa un po' un gioco demagogico, perché se la liberalizzazione deve servire per i cittadini e poi succede esattamente il contrario, credo che non vada molto a vantaggio di... Cioè è il ragionamento che ci ha appena fatto il presidente degli avvocati ALPA, che dice: attenzione, in questo modo, senza tariffe minime, i grandi gruppi assicurativi, i grandi gruppi bancari potevano imporre tariffe da miseria, ridicole. Però io per lei ho una domanda ulteriore, perché voi come notai siete 4.723, il numero è, diciamo, è definito, è fisso. Allora io le chiedo, ma in un settore che ha già un numero fisso di notai, che senso ha? Per cui non ha nemmeno, come con gli avvocati, comunque all'ingresso, diciamo, un concorso, ma senza un numero fisso. Voi avete un tetto definito, che senso ha mettere la tariffa minima? Tanto quelli siete e vi dividete il territorio sulla base della vostra presenza. Allora, intanto siamo 5.312 in organico e ne avremo, credo, altri 600 o 700 tra pochissimo. Ci sono due concorsi nei quali entrano in ruolo altri 600 colleghi nel giro di un paio d'anni. La questione del numero chiuso o programmato non ha niente a che vedere col discorso delle tariffe, ha a che vedere sulla selezione e sulla qualità della prestazione dei professionisti, sul fatto che il delegante della funzione, cioè lo Stato, possa controllare questi suoi delegati, sul fatto che abbiamo delle responsabilità che sono patrimoniali, civilistiche, tanto è vero che abbiamo un'assicurazione obbligatoria, abbiamo anche il fondo di garanzia per eventi dolosi, e in questo senso il numero programmato funziona. Il discorso della tariffa, se anche all'interno, diciamo, del numero programmato ci fosse qualche collega che decide di intervenire con tariffe stracciate, diciamo così, determina nei confronti del cliente quelli che sono, come dire, gli azzardi morali, perché si mette su un versante che è certamente deontologicamente scorretto, ma al di là di questo rischia di dare delle prestazioni che non sono al livello minimo che sono quelle richieste evidentemente dalla... Mi scusi, Presidente Piccoli, io però non capisco, mi scusi. Cioè, avete un numero chiuso, va bene, per motivi di legge, in cui praticamente si decide il numero con il Ministero della Giustizia, penso, se non ricordo male. Comunque il numero viene deciso e quello è. Siete contro l'abolizione delle tariffe minime. Addirittura mi sta dicendo che se un notaio volesse offrire, poniamo, 100 euro per un atto notarile che di solito ne costa 400, sarebbe un azzardo morale. Ma io voglio dire, in altri settori dove non è che la responsabilità sia minore, lei pensi a un medico che opera in regime privatistico, in casa di cura, o un dentista stesso. Cioè, lì la tariffa, uno va in base alla reputazione professionale, al servizio offerto. Io so che se vado a pagare un'operazione sui miei molari, che pure non è che valgano meno o non siano a rischio, 100 euro invece che 500, probabilmente avrò un dentista più giovane. Stessa cosa se vado a farmi un'operazione di altro genere chirurgico. Cioè, perché mi dite che se uno abbassa la tariffa fa un azzardo morale rispetto al servizio? Questo non capisco, come mercato dei servizi, anche il vostro è un servizio. Allora, il nostro intanto è un servizio, ma che è collegato ad una funzione di carattere generale, la tenuta dei pubblici registri, una sicurezza e una affidabilità dei diritti che non può essere legata alla probabilità, ma alla totale certezza. E poi lei mi fa l'esempio del dentista. Ma il dentista o del chirurgo, certo. O del chirurgo, ma le possono dare, io le potrei dare degli esempi di amici o di persone. Lei di solito sceglie il chirurgo che costa di più, non quello che costa di meno. Lei va in una libreria, non va a chiedere il libro che costa meno, vuole il libro che abbia la qualità maggiore. Se lei va dal dentista e ha il prezzo minore, chi le dice che quello non le metta gli amalgami che poi le creano? Mi scusi, lì viene, allora, viene cacciato dall'ordine, cioè, non è no, che no, si... no, perché ci sono. Viene cacciato dall'ordine se supera determinati limiti. Però... e chiaramente crea dei guai notevolissimi, ma ci sono dei livelli di prestazione che sono completamente diversi tra di loro e non mi dirà che naturalmente non possono creare poi dei guai nel momento in cui si scopre che per esempio il famoso dentista ha usato dei materiali che non erano adeguati. Allora lei è per introdurre le tariffe minime anche sui dentisti, sui chirurghi, su qualunque tipo di servizio che viene svolto, perché a questo punto, se il principio deve essere che se costi poco metti a rischio quello che è il servizio offerto, allora reintroduciamo le tariffe minime per tutti. Dopodiché io, che credo invece nel mercato, penso che un mercato voglia anche dire che se vado all'Esselunga, fermo restando, o in un supermercato qualunque, fermo restando che non mi puoi avvelenare, perché sennò vai in galera, ma se io compro un formaggio che costa poco, probabilmente la qualità del formaggio non sarà la migliore. Se voglio un formaggio sopraffino, me ne compro uno che costa tanto, ma dovete darmi questa possibilità, o no? Sì, perché gli economisti dicono in modo molto chiaro che ci sono dei prodotti per i quali il consumatore può fare la verifica. Alcuni la può fare prima, per alcuni la può fare con l'esperienza, per alcuni servizi non è in grado di farla mai. E tra questi ci sono i servizi professionali. Guardi che anche nel mondo angloamericano non ci saranno le tariffe minime come le definiamo noi, ma ci sono comunque delle tariffe di riferimento. Se lei va a vedere che cosa dicono la Bar Association, la Law Society e le associazioni inglesi, vedrà che le tariffe ci sono e come, e i consumatori fanno riferimento a quelle, come il discorso del numero programmato. Non è che tutti fanno tutto, i solicitori inglesi che fanno i trasferimenti immobiliari sono, guarda caso, 8.000 su 90.000, quindi poi alla fine le proporzioni dei soggetti preparati e capaci che sono in grado di garantire realmente il cittadino sono quelli, perché le proporzioni sono quelle. Allora, Presidente del Notariato Paolo Piccoli, io la ringrazio per la disponibilità. Le devo dire, come spesso diciamo agli ospiti, che non è che mi abbia convinto. Io resto dell'idea che in un mercato in concorrenza si garantiscono si danno le garanzie minime, se no si va in galera o si viene espulsi dall'ordine a cui si appartiene. Dopodiché ci concorre liberamente sui prezzi. Se io pago meno, so che il servizio forse sarà meno buono, ma sempre, diciamo, dentro i limiti di legge. Comunque, grazie anche a chi rappresenta i notai, Paolo Piccoli. 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in questa puntata di Focus Economia, in cui oltre a occuparci della borsa, e adesso darò qualche aggiornamento, abbiamo anche trattato le difficoltà che stanno attraversando e a mio avviso anche un po' di arroccamenti certe categorie professionali. Abbiamo iniziato con gli avvocati rappresentati dal Presidente dell'Ordine Forense, ma anche dai giovani avvocati. La riforma della riforma Bersani ha reintrodotto le tariffe minime, la reintroduzione delle tariffe minime, l'avete appena sentito, la vogliono anche i notai, abbiamo avuto il loro presidente, e adesso sarà la volta dei commercialisti. Non sono d'accordo con chi dice che ci stiamo occupando di categorie che stanno bene. Solo nei commercialisti ci sono 30.000 giovani praticanti che guadagnano praticamente niente, e questo vale anche per gli avvocati. È chiaro che nel momento in cui dei giovani avvocati arriva una crisi del genere, i primi a pagare le conseguenze sono i più deboli, e quindi non mi potete dire che un avvocato che guadagna 800.000 euro in studio sia uno che è messo bene. Volete sapere però di SEAT? Allora, ieri ne abbiamo parlato, è arrivata una indicazione di una casa d'affari che ha detto che il valore di SEAT secondo loro è pari a zero. Ieri il titolo aveva perso tanto, oggi ha replicato meno 7,1% a 16 centesimi di euro per azione. Peggio hanno fatto il risparmio, meno 13,7% a 1,12 euro. Allora, parliamo adesso con i commercialisti, anche perché c'è una notizia di cronaca anche in questo caso. Si è conclusa il convegno, l'assemblea annuale dei dottori commercialisti, sono arrivate anche molte proposte sul fronte fiscale, e allora siamo in collegamento, lo ringraziamo, con il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Molto si è parlato della vostra assemblea annuale, anche perché sono arrivate non solo osservazioni e analisi, ma anche proposte. Voi, e lo citavamo nei giorni scorsi, avete calcolato che la pressione fiscale reale, cioè il peso delle tasse sul paese, in realtà non è al 42,8%, ma al 50,6% in Italia. Questo al netto dell'economia sommersa, e così diventiamo il primo nei paesi europei come pressione fiscale, sopra anche Danimarca col 49, Svezia col 47, Belgio col 45. Da lì alcune proposte per abbassare la pressione fiscale, partendo dalla lotta all'evasione. Sì, io credo che questo dato sia molto significativo. In realtà si parla di pressione fiscale e si immagina che questo voglia dire quanto premono le imposte su chi le paga. In realtà bisogna togliere quota di sommerso, e togliendo la quota di sommerso la nostra pressione fiscale su chi le tasse le paga realmente è, come ha detto, del 50,6%, quindi che ci pone assolutamente in testa alle classifiche, dovrei dire addirittura mondiali. Se si pensa che noi abbiamo il secondo sommerso al mondo dopo la Grecia, l'immagine del nostro paese è veramente molto negativa. Cioè, da un lato il paese con la più alta pressione fiscale al mondo, dall'altro il paese col più grande neo al mondo, o comunque come il secondo, quasi a dire che in questo paese o si evade o si viene spolpati vivi. E questo è un messaggio che sicuramente non è rassicurante. Credo che ci sia molto da fare nella lotta contro l'evasione. Penso che non sia tanto gli studi di settore, che peraltro per noi liberi professionisti hanno ben poco senso, a poter essere, come dire, uno strumento concreto ed efficace di lotta, anche perché gli studi di settore prendono in esame soltanto una fetta di contribuenti, quasi marginalizzandoli e criminalizzandoli, cioè i piccoli e gli autonomi, mentre penso che dare più peso al cosiddetto redditometro, l'accertamento sintetico dei redditi, evidentemente non a questo redditometro, ma a un nuovo redditometro da costruire assieme, uno strumento che è trasversale, democratico, riguarda tutti, riguarda autonomi e dipendenti, ma perché no anche disoccupati, laddove vi fossero delle persone che assolutamente senza dichiarare redditi in realtà manifestano delle attitudini di ricchezza, di spesa. Noi lo sappiamo che non esistono al mondo evasori fiscali che rinuncino ad esibire i segni esteriori della loro supposta ricchezza, e quindi credo che per un elemento di civiltà fiscale debba essere questo lo strumento su cui insistere. Su questo noi siamo pronti a fare la nostra parte. Allora, Presidente Siciliotti, dopo le informazioni per chi è in viaggio, cerchiamo di capire in che cosa consiste la vostra proposta, cioè andare a vedere il reddito, il tenore di vita, e non la dichiarazione dei redditi o gli studi di settore. Una cosa la dico anche a chi scrive: attenzione, questo è un paese in cui l'altissima evasione fiscale genera un'altissima pressione fiscale, non viceversa. I vasi sono comunicanti, ma in questa direzione. 18 e 18 minuti, ultima parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Continuiamo la nostra conversazione con il presidente dei commercialisti italiani Claudio Sicigliotti. Allora, fermo restando che abbiamo un'altissima evasione e questo comporta anche un'altissima pressione fiscale su chi le tasse è obbligato a pagarle e comunque le vuole pagare. In questo paese, l'abbiamo detto più volte, ci sono poco più di 200.000 contribuenti che dichiarano più di 100.000 euro lordi l'anno, ma mezzo milione di barche sopra fino a 10 metri, 100.000 barche oltre 10 metri, 140.000 yacht e auto di lusso noleggiati solo nell'ultimo anno, 200.000 immobili di lusso affittati, 2 milioni di villini, 35.000 ville di pregio. Insomma, posso andare avanti, ma mi fermerei qua. Sicigliotti, è chiaro che qualcosa non torna. E allora voi proponete un redditometro che invece di guardare se guadagno 50.000 euro, va a vedere se guadagno 50.000 euro, ma anche se ho case di proprietà, barche di proprietà, ville al mare di proprietà? Ma allora, prima considerazione, i commercialisti prima di essere professionisti sono dei cittadini e come cittadini hanno a cuore che questo sia un paese in cui esiste la giustizia fiscale, dove si stabilisce sostanzialmente quello che noi definiamo un fisco leggero, cioè possibile nelle aliquote, possibile negli adempimenti, ma poi inflessibile nelle sanzioni. Dobbiamo dire che abbiamo assistito fino ad oggi all'esatto contrario, un fisco pesantissimo sia nelle aliquote che negli adempimenti, a fronte di un fisco di sanzioni sostanzialmente eventuali in caso di inosservanza. Questo è un pessimo segnale che secondo me va invertito. Poi i dati dell'evasione sono quelli, si parla di 100 miliardi di evasione l'anno, 100 miliardi è il totale della spesa sanitaria, sono più degli interessi passivi che tanto incidono sui conti di questo Stato, che sono circa 80 miliardi. Se a 100 miliardi di evasione corrispondono 300 miliardi circa di imponibile, è quasi il 20% del PIL, cioè questa è una condizione che non può essere affrontata. Ora è chiaro che le manifestazioni di ricchezza devono essere attentamente monitorate, non è una giustizia invasiva, è una giustizia giusta e chiaramente oggi sappiamo che esistono molti strumenti per disporre di un bene senza risultarne formalmente intestatario. Sappiamo bene che le barche di cui parlava sovente sono intestate a ottuagenari o a società straniere, quindi il redditometro a cui immaginiamo di pensare è un redditometro evoluto, al passo con i tempi in cui esiste l'informatica, esiste la possibilità di incrociare dati, è impensabile usare gli strumenti che si usavano 10 e 20 anni fa, perché oggi il mondo è cambiato, su questa frontiera, su quella di un nuovo redditometro giusto, perché è vero che può darsi che qualcuno di noi abbia talvolta anche difeso un evasore, giusto che sia anche così, perché a tutti va offerta la possibilità di ottenere le prerogative che la legge gli consente, ma nessuno di noi, soprattutto le istituzioni, hanno difeso l'evasione, questo mai. E allora adesso, così come l'avvocato difende l'assassino, ma non difende certo l'assassinio, ecco, e vi farei lo stesso tipo di paragone. Quindi a fronte di tutto questo ci sembra giusto e morale che si lavori in questa direzione. E noi siamo, come le dicevo, pronti a dare il nostro contributo. No, no, guardi, l'esempio mi va bene, un avvocato difende un assassino e non, o un criminale, ma non per questo difende il crimine. Voi avete fatto consulenze e probabilmente anche aiutato a realizzare certe forme di evasione, ma non per questo dovete difendere l'evasione in sé. Certo. In sé. È chiaro che poi quando uno viene e chiede a tutti i costi come eludere il fisco, è anche, diciamo, il ruolo. L'importante è che il fisco non si faccia eludere. Lei ha ragione a ricordare che molte di queste barche auto di lusso sono in leasing oppure intestate alle società, basta controllare, perché una società che produce, boh, che ne so, dadi deve aver bisogno di una barca da 20 metri, si fa un controllo incrociato e si va a verificare. Sì. Detto questo, lei ipotizza che a questo punto per trovare risorse sui conti pubblici si possa arrivare, come dicono alcuni, a una mini patrimoniale, cioè una tassa che va a prendere e applicarsi anche sui beni di proprietà e non sul reddito del lavoro prodotto? Questa è una riflessione da fare. Perché cioè in Svizzera c'è la Svizzera, sì, che è un paese, sì, è una piccola parte dell'aliquota, però è chiaro che se tu non riesci a scovare gli evasori, un governo può anche dire va bene, io non riesco a beccarti nel momento che vadi, però siccome con questa evasione tu ti sei comprato la villa, il castello, la barca, io ti tasso un po' di più il patrimonio. idea, però evidentemente questa idea va a colpire chi quella casa, quella barca e quel patrimonio se l'è acquisito pagando le tasse, che a questo punto le paga due volte, e chi viceversa non l'ha fatto. Io credo che dobbiamo più che altro andare a scoprire la radice del fenomeno, la vera natura, e discriminare, perché essere ricchi non è un reato. No, anzi. Cioè, anzi, devo dire la verità che i contribuenti ricchi sono quelli che contribuiscono di più alle casse dello Stato e in qualche modo danno di più a chi ha di meno. Quindi non è sicuramente un peccato, è esserlo sottraendosi ai doveri tributari che è un reato, è questo che va perseguito. La patrimoniale potrebbe colpire gli uni e gli altri senza differenze e quindi assommare un'altra ingiustizia. Quindi sì, dobbiamo, potrebbe colpire anche... Io di più su un redditometro, cioè su uno strumento di verifica del percorso attraverso il quale quella disponibilità patrimoniale mi è giunta. D'accordo con lei, per quanto io non sia un esperto, ci mancherebbe, il redditometro va a vedere che tipo di tenore di vita ha, insomma, e quindi ti chiede conto del perché tu hai determinati senza beni. Senza alcun automatismo, certo, mentre una tassa patrimoniale andrebbe a colpire oltre che quei contribuenti che sono stati corretti e che si sono comprati questi beni con i risparmi, spesso di una vita, anche chi li ha ricevuti, per esempio, come asse ereditario, per cui tu non puoi... e non ha mai evaso perché magari è un lavoratore dipendente o perché non evade di suo, per cui insomma si rischia di creare un po' di discrimine, mentre, come lei dice, il redditometro va a vedere che tipo di vita hai, perché se poi tu i soldi li tieni sotto il materasso, vivi con due lire, hai un'utilitaria, vabbè, sfuggirai al redditometro, ma almeno fai una vita così, non da nababbo. Un po' di giustizia in diretta. Un'ultima domanda, Siciliotti, che riguarda invece voi come commercialisti. Abbiamo fatto nella prima parte del programma proprio, abbiamo dato un ampio spazio alle difficoltà che attraversano intere professioni, avvocati, abbiamo sentito, giovani e non giovani, anche luce della riforma, i notai stessi denunciano cali del 25% del fatturato e difficoltà nella professione. C'è la sensazione che le libere professioni, i lavoratori autonomi, soprattutto quando giovani, stiano pagando tantissimo questa crisi. Vuoi perché non hanno la cassa integrazione, vuoi perché gli viene chiesto, come abbiamo scoperto delle volte, di diventare partita IVA anche se lavorano come dipendenti, perché così la partita IVA la paghi di meno e puoi interrompere il rapporto velocemente. Cioè non c'è nessuna tutela, gli ordini professionali, vedi il caso degli avvocati, addirittura vanno all'arrocco, per cui vanno a chiudersi. Insomma, non sarà che questa crisi rischi di falcidiare proprio le libere professioni che sembravano... No, quelle messe meglio? Voi che cosa fate per i giovani commercialisti? No, sicuramente questo problema esiste. Esiste forse per quanto riguarda noi, trattandosi di una crisi economica e una crisi economica necessitando di soluzioni che riguardano le nostre specifiche capacità, un calo così brusco e così drastico della richiesta di servizi professionali nel nostro campo forse non è così significativo come in altri campi, però è chiaro che comunque esiste, ma è chiaro che c'è un fortissimo ritardo nei pagamenti, cioè la gente ci chiede di avere pazienza perché non è la situazione di prima e per cui ti chiedo comunque di darmi una mano per superare una determinata situazione, ma ti chiedo di pazientare di più. Ed è per questo, per esempio, che noi stiamo chiedendo con forza, non capisco perché le misure, il decreto anticrisi riguardi da un lato le famiglie, e questo lo capisco benissimo, e dall'altro le imprese, quasi che qualcuno si fosse dimenticato che invece delle imprese esistono le attività produttive, che sono un concetto più ampio, che ricomprendono anche le professioni. E allora questi professionisti che col perverso meccanismo delle ritenute da conto più alte della media degli imponibili a cui si dovrebbero applicare sono creditori dello Stato e quindi finanziano lo Stato, in questo momento si trovano a finanziare pure i loro clienti. E ancora una volta misure come la moratoria dei debiti bancari viene pensata e realizzata per le imprese, ma assolutamente non pensata per i professionisti. Quei professionisti che magari nel momento di crisi potrebbero investire in tecnologia, oggi si parla di PEC, oggi si parla di firma digitale, però guarda caso la Tremonti Ter riguarda le imprese. Siciliotti, è chiarissimo sul ragionamento, volete che vengano applicate anche voi alcune agevolazioni, che vengono applicate a altre categorie produttive? Grazie al presidente del dottori commercialisti e degli esperti contabili Claudio Siciliotti. Noi abbiamo fatto il possibile per raccontarvi, avvocati, notai, giovani avvocati, giovani commercialisti, le difficoltà di altri settori, non sempre siamo riusciti a ottenere risposte, ma va bene anche così. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione, a Filippo Reggi per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.